siamo arrivati, ma siamo sempre un po' di corsa, tirati, affaticati, preoccupati, in perenne allerta, stanchi ma incapaci di rallentare il passo, in una parola stressati. Questa situazione la conosciamo, ma forse quello che ci sarebbe utile conoscere è trovare delle strategie per rimanere o ritornare in equilibrio, per non perdere il controllo, per non farsi travolgere. Noi ce la possiamo fare, ma dobbiamo essere disposti a effettuare dei piccoli cambiamenti che non produrranno soluzioni per i nostri problemi, non ci faranno trovare lavoro, né soldi, né l'amore, ma presidieranno il nostro benessere. Con un corpo e una mente sani, i problemi si vedono sotto un'altra luce. Se lo stress sembra avere un debole per voi, rasserenatevi, rassereniamoci all'idea che siamo in buona compagnia. Sentiamo che cosa ci dice il nostro dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano e direttore scientifico di Eurosalus, la piattaforma che ospita i nostri questionari e che naturalmente ci aggiorna al polso della situazione. Cosa dicono i questionari? Dove siamo? I questionari sono bellissimi, direi che stiamo seguendo un'evoluzione estremamente interessante. Intanto abbiamo raggiunto la parità dei sessi per la prima volta, nel senso che finora abbiamo avuto sempre risposte sulle categorie precedenti in cui c'era una predominanza femminile. Sullo stressato siamo esattamente al 50%, quindi 50% uomini, 50% donne. Dopodiché direi che si caratterizza anche una certa modalità, il 32% di questi vive solo, mentre prima ovviamente c'erano più situazioni di compagnia, e devo dire sono tra quelli che iniziano ad avere più problemi di sonno, nel senso che la percentuale più alta riscontrata è il 32% delle persone che hanno riempito il questionario in realtà dormono meno di 6 ore, ed è il valore più alto riscontrato dai questionari finora compilati. Quindi togliamo il sonno ai nostri ascoltatori, disturbiamo i sonni dei... Il 42%, per dire come a volte magari anche un iperatteggiamento di controllo, utilizza strumenti di self-measurement, di misura, e conoscono esattamente che cosa stanno facendo, dalla bilancia agli strumenti per capire se ti muovi, quanti passi fai e così via. La causa principale dello stress, da tutti riferita, per il 72% è il lavoro. Allora, insomma, il profilo generale ce l'abbiamo, adesso dobbiamo andare a conoscere chi è il capofila di questa tribù. In rappresentanza di tutti gli stressati, oggi vi presentiamo Riccardo. Riccardo ha 43 anni, è fidanzato e vive a Carbonia. Come lavoro faccio lo psicologo, viaggio moltissimo, utilizzo molto la macchina perché ho diversi studi, ho uno studio a Carbonia, uno studio ad Iglesias e uno studio a Cagliari. È un uomo solare ma allo stesso tempo un po' riservato. Sono un po' permaloso, precisino, pelandrone. Riccardo ha un debole. Ho il debole per il cibo, i carboidrati, la pasta, soprattutto gli spaghetti. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Quando sono stressato mi viene voglia di mangiare qualcosa di dolce, magari di fronte alla TV, allora mangio qualche biscotto, qualche dolcetto. A casa è lui ad occuparsi della spesa. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Non pigliare la pasta grossa perché non la digerisco. Poi ti fai una bella boatta di pomodoro, perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Vogliamo fare una bella padellata di uova? Assicurati che siano fresche, Solitamente la faccio io. Vado a cercare più che altro le offerte, però nei supermercati, ipermercati. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori. Riccardo, sei il nostro candidato per la categoria degli stressati a Cuore Denari Expo. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Per verificare se posso avere uno stimolo in più. Sono in una boy band, sono in una boy band. E noi saremo stimolanti, almeno ce lo auguriamo. Riccardo è in linea con noi. Ciao Riccardo, benvenuto. Buongiorno, eccomi qua. Riccardo, ma qual è quello stimolo di cui parli nella tua presentazione? Speriamo di essere in grado di dartelo. Ma guarda, io ho pensato un pochino a quale potrebbe essere lo stimolo. Intanto, visto che ci sono degli esperti, mi piacerebbe sapere se esistono dei piatti veloci che danno energia ma che non appesantiscano comunque l'organismo, è un po' questo, no? Anche perché per affrontare lo stress io faccio molte passeggiate quando posso all'aria aperta dove ci sono corsi d'acqua, quindi però la cosa che vedo che è più difficoltosa è proprio il cibo. Essendo uno psicologo, prima abbiamo detto che nei questionari le persone dicono che mangiano dolce dolcetti, però non hanno messo tra le preferenze di acquisto dolce dolcetti. Dove li trovate? Ah, guarda, si trovano e come. Io non nascondo che quando vado a fare la spesa dico: questo è il mio dolcetto, questo è il mio premietto. Però lei li compra, appunto. Non è e poi c'è sempre qualcuno che li regala. Riccardo, tu sei una persona molto amata, gli amici ti regalano i dolci, certo, per dimostrarti tutto il loro affetto. Riccardo, grazie, noi ti affidiamo ai tuoi due coach che sono già in linea con noi, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma, all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno a tutti voi, buona giornata. Che lavora in coppia con Marcello Zaccaria, cuoco e giudice per la cucina italiana di Masterchef in Finlandia, Dubai, Romania, giudice del programma Top Chef Libano, Casalice, Uno Mattina e tanti altri programmi. Buongiorno e benvenuto anche a Marcello. Buongiorno anche da parte mia. Ha trovato anche il tempo per fare qualcosa per noi, incredibile. Riccardo, tu hai una richiesta, l'hai già fatta, piatti veloci, leggeri da cucinare rapidamente. Hai un'altra richiesta per i tuoi coach? Ma no, questa è la richiesta che faccio, più che altro trovare veramente dei piatti che siano stimolanti e che diano energia allo stesso tempo, perché io avendo poco tempo per cucinare, certo, solitamente faccio una pasta asciutta e mi appesantisce, però credo che esistano delle ricette fondamentalmente. E ne troverai, ne troverai per 4 settimane, ti faremo fare prima una lista della spesa, Deborah guarderà, no, starà attenta anche al portafoglio. Allora, Riccardo, tu affidati, noi lavoriamo per te. Buona giornata. Giornata, e continua a seguirci. Grazie mille, grazie per tutto. Mille. Buona giornata. Dottor Gualerzi, eccoci a noi. Nel suo libro Super Salute racconta che rispetto al passato siamo tutti più attivati, tanto che i nostri battiti sono più accelerati. Basterebbe questo forse a confermare quello che ciascuno di noi pensa, e cioè che siamo tutti un po' stressati, è corretto? Sì, diciamo che è corretto, nel senso oggi per vivere a questi, diciamo, ritmi dobbiamo essere necessariamente più attivati. Il problema è che oggi mancano dei momenti in cui rallentiamo. La frequenza cardiaca è un po' la punta dell'iceberg, e mi piacerebbe appunto sapere adesso ai nostri radioascoltatori che frequenza cardiaca hanno, perché mediamente oggi rispetto a 20 anni fa abbiamo più pulsazioni, e questo è solamente, come dicevo, la punta dell'iceberg di un segnale di attivazione che implica poi tutta una serie di conseguenze che vanno ben al di là del fatto di avere la frequenza più alta. Ci sono, e diremo, anche qualche rimedio per abbassare il fuoco sotto la pentola, e quindi per abbassare l'attivazione. Ad esempio, delle volte non bisogna cambiare drasticamente vita, è sufficiente magari mettersi 3 minuti al giorno a respirare profondamente, forzando soprattutto l'espirazione per spegnere lo stress e anche rallentare le pulsazioni. Comunque mi interesserebbe appunto sapere quante pulsazioni oggi hanno i nostri radioascoltatori che si sentono stressati. Questa è un po' una cartina di tornasole, insomma, dello stress. Chi abbiamo al telefono? Ancora sentito il nostro cuoco, Marcello Zaccaria. Marcello, ci siamo. Eccoci. Senti, qual è il denominatore comune delle tue ricette? Allora, sicuramente intanto siamo molto fortunati perché ci troviamo in Italia, perciò la gastronomia italiana è semplicità, ed è un po' quello che ci chiede Riccardo, no? Semplicità, velocità nell'esecuzione. I nostri piatti appunto rispecchiano questa figura qua. I nostri piatti sono realizzati in pochissimo tempo, però questo non vuol dire che non sono buoni. Rispettiamo gli ingredienti, i principi nutrizionali, la leggerezza, e non dimentichiamoci mai del colore. Infatti spesso si mangiano dei piatti con colori molto scuri e non sono invitanti. Mi immagino uno stressato che si trova un piatto di spinaci, ad esempio, cotti male, che da un bel verde brillante si trova un verde molto scuro. Il trucco è tuffarli subito in acqua e ghiaccio, vero Marcello? Anche lì io non... Non sei d'accordo? No. Bravo, perché è difficile. E come si fa a mantenere il colore? Allora, solitamente si cerca di cucinarli il più vicino possibile al momento del consumo, perciò al pranzo o alla cena. Cioè, mettendoli in acqua e ghiaccio, cosa si fa? Li andiamo a lavare, perciò andiamo a perdere parte dei sali minerali presenti. Perciò un trucco può essere quello di creare un bagnomaria freddo, perciò mettere del ghiaccio all'interno di un contenitore e all'interno di questo contenitore mettere un altro contenitore dove inseriamo il nostro prodotto da raffreddare, perciò non è a contatto diretto con... Secondo con me l'ho stressato tutte queste bacinelle con acqua, ghiaccio eccetera, non lo fa. Vabbè, quindi attenzione al colore smorto dello spinacino. Allora si può impegnare a comprare le cose fresche intanto a rendere colorate e non ci stressi, dice Deborah. Dai, usciamo a fare la spesa. La spesa, ecco il mandarancio che è ritornato. La spesa di uno stressato ce la immaginiamo in realtà molto meno musicale, molto più di corsa. Lo sappiamo, talvolta la fretta è una cattiva consigliera, non ci permette di fare le scelte migliori al supermercato, al mercato e non solo, vero Nicoletta? Noi tra l'altro stavo immaginandomi come uno stressato, che tipo di atteggiamento potesse mettere in campo quando si mette a fare la sua scelta di prodotti da mettere nel carrello della spesa, no? O è un acquirente che agisce d'impulso, che ne dici tu? Un po' compulsivo. Esatto, oppure un po' svogliato, non gli interessa, mette dentro quello che così che passa il convento o che è passa anche un po' monotono. Ci sono idee come clicca promo, pazzi per le offerte, che permettono di risparmiare tempo, anche denaro, forse anche lo stress lo riduciamo un po' magari divertendoci a cercare le offerte. Luciano Mazzone, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, la splendida forma. Assolutamente, perché ha inserito le proteine nella prima colazione. Ho assolutamente seguito i consigli e confermo che mi sento molto meglio. Perché zitto zitto, vedi? Eh certo, perché ascolta, noi li vogliamo educare tutti quanti, dal primo all'ultimo. E vi ricordiamo che nella sezione speciale del nostro sito dedicata al progetto Cuore Denari Expo trovate per ogni categoria, e quindi già ricordiamo le prime tre che abbiamo analizzato, insieme ai consigli di salute e ai menu, anche la lista dei prezzi e della spesa. Per ogni spesa la squadra di Clicca Promo ci aiuta ad individuare il possibile risparmio. Dai, usciamo a fare la spesa. Ma innanzitutto fatemi dire che anche per uno stressato fare una lista della spesa è un ottimo modo per ridurre lo stress fra le corsie del supermercato, perché così non ci si dimentica nulla e si ha molto ben chiaro che cosa comprare. In più, anche per il risparmio, è la scelta assolutamente vincente. Cosa ancora più importante in queste settimane in cui abbiamo dato delle indicazioni precise anche per fare dei piatti, delle ricette, per cui la lista della spesa, Nicoletta, penso che sia imprescindibile, no? Quindi andare attrezzati al supermercato. Dentifrici e creme trasparenti. Diciamo che questa lista della spesa è piuttosto standard come merceologie, sempre su prodotti pregiati. Io mi sento di segnalare per esempio sul pesce gamberi e branzino, sono due merceologie che costano giustamente, e trovare offerte su questi prodotti non è facilissima, ma si può risparmiare un 20-25% abbastanza facilmente. Complessivamente il carrello della spesa che ci ha portato oggi fa spendere quanto allo stressato, perché non vogliamo stressarlo ulteriormente, quindi stia attento alla cifra che pronuncia. Avrebbe speso circa 65 euro, con le offerte scende intorno ai 45, quindi un risparmio che si aggira poco meno del 30%. Quali sono i prodotti più costosi in questo carrello? Beh, quelli che dicevo prima, appunto, gamberi, gamberi, oppure anche le mandorle o altri prodotti di questo genere. Su questi il risparmio è un po' inferiore rispetto alla media, ma pur sempre significativo, soprattutto in termini assoluti. L'offerta più incredibile che abbiamo trovato questa settimana? Beh, sui ceci o sullo yogurt si passa il 40%, sfiorando il 50%. E adesso una piccola pausa, il meglio di Cuore Denari Expo torna tra pochissimo con i mestieri del cibo e l'editoriale del giorno. Cuore e Denari. E siete sempre all'ascolto del meglio di Cuore Denari Expo, che abbiamo scelto di riproporvi in questa settimana di agosto. Ora è il momento dei nostri mestieri del cibo. E il secondo mestiere che abbiamo incontrato è quello del bartender. Più che barista direi un acrobata. Un trapezista. Riascoltiamo quindi l'intervista al nostro bartender Federico Volpe. Insieme a noi sentirete naturalmente anche la voce di Fernanda Roggero di Food 24 del Sole 24 Ore, con cui abbiamo condiviso il percorso dei mestieri del cibo. Certo, la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate. Oggi, noi l'abbiamo anticipato, parliamo di acrobati, eh? E sul sito di Food 24 raccontate infatti com'è un po' questo progetto, e oggi parliamo di, puoi presentare. Il bartender è quello che fino a pochi anni fa si chiamava barista. Senza sminuire ovviamente l'evoluzione, non solo terminologica ma anche professionale. Un barista è evoluto, un acrobata barista. Sì, guarda, posso darti un dato che ti dà subito l'idea. Un bartender acrobatico, diciamo, un flair bartender, guadagna a serata da 150 a 180 euro, quindi insomma è un buon mestiere. Quanto dura questa serata, peraltro? Comunque, beh, è bella impegnativa, perché sì, bella... La serata dura non vorrei molte doverlo ore. Intervistare per la prima parte del programma nella categoria degli stressati, Nicoletta, però è un lavoro molto intenso. Molto intenso e anche molto faticoso. Esatto. Allora, ricordiamo, quindi ci vuole fisico oltre che tecnica. Il fisico bestiale. Sì. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lo sentiamo anche abbastanza bene, temevamo un collegamento telefonico un po' più problematico. Federico, intanto diamo la tua definizione di questa professione e raccontaci cosa significa bartender. Raccontacela tu la differenza con il barista tradizionale. Ma fate conto che il bar tradizionale ha lasciato via via spazio a nuovi luoghi di incontro, dove i drink sono l'ingrediente principe di un vero e proprio spettacolo. Sia l'indirizzo per l'aperitivo giovane o lo speakeasy dalle atmosfere 20-30, da anni 20-30, dietro il bancone ormai trovate sempre un intrattenitore, quindi diciamo che la figura del barista è un pochettino cambiata, ci siamo un attimo adattati ai nostri tempi, a una rinascita della miscelazione. Hai capito. Diciamo. Federico, tu da quanto svolgi questo mestiere? Come ci sei arrivato? Poi ci darai anche qualche consiglio per chi vuole formarsi in questo mondo, insomma, e vuole fare questo percorso professionale. Ma guarda, io lavoro da parecchi anni, oltre ai vari locali più o meno famosi dove ho collaborato. Mi piace raccontare la storia della mia passione. Io mi ricordo la domenica, quando il mio primo mestiere è stato dove mia madre mi faceva fare i caffè per la famiglia. E tu facevi svolazzare le tazzine così, proprio come un trapezista? Non proprio così, perché ne ho rotti veramente tanti, quindi abbiamo iniziato perché lo scappellotto arrivava, quindi non c'era niente di acrobatico. Aveva la mano delicata, ma si faceva sentire. Però comunque, a parte gli scherzi, diciamo che la ricerca del gusto è partita da quando ero piccolo, vedevo comunque i miei familiari che erano abbastanza contenti di tutto questo, io allora cercavo sempre di fare del mio meglio, diciamo, no? In fondo per amore, è certo. È sempre lì, è il motore. Federico, quando abbiamo anticipato nella prima parte del programma che ci saremmo occupati di bartender, ha chiamato un tuo collega da Riccione che si è candidato subito a partecipare alla nostra trasmissione, a raccontarci la sua esperienza. Magari li conoscete, facciamo una carambata. Facciamo subito una carambata. Dai. Lo vuoi presentare tu, Nicoletta? No, vai tu. Charles Flamminio da Riccione. Salve, buongiorno. Charles, buongiorno. Allora, abbiamo detto solo una volta nella prima ora di programma bartender, tu subito l'hai colta al volo. Sì, una mia amica che era in linea mi ha contattato, allora, sapendo che io sono, insomma, diciamo, uno dei bartender qui a Riccione abbastanza conosciuto, ecco, insomma, ho lavorato nei migliori posti qui in Romagna, e allora mi ha chiamato e mi sono permesso di telefonare. Hai fatto bene, una professione che dà delle belle soddisfazioni, mi sembra, insomma, in un momento in cui la crisi occupazionale continua ad essere il tema dominante di tutte le nostre riflessioni, è invece una professione che gode di un certo successo in questo momento. Ci si può candidare o bisogna proprio avere una vocazione, Charles, se no lasciamo perdere? Io conosco persone che lo fanno anche da pochi anni e già sono diventate brave, come io che lo faccio da tanti anni, ormai ho 46 anni, ho lavorato 10 anni a Grandose di Rini. Quell'ormai 46 anni non mi è piaciuto, Charles. Come diceva il mio collega prima, che tra l'altro conosco il Filippo Sisti, quello, l'altro barman, sì. Il barman di Cacco, sì. Il convitato di pietra di oggi. Sì, lo conosco un po', sono amico. Così. E tra l'altro, insomma, i barman hanno avuto una piccola evoluzione, si scopre adesso tante cose che si facevano molti anni fa, cioè, è ritornato il gusto di fare homemade come a Londra, come in altri posti del mondo. E il barman scopre anche marcate, prodotti biologici, prodotti della cucina e della pasticceria che si uniscono al banco del bar. Ho avuto modo anche di farlo in tanti posti dove c'erano dei chef importanti che facevano delle cose che assomigliavano un po' alle mie. Io dicevo, perché non mettere, faccio un esempio, questa panna dello chef in una di miei drink? Allora perché modificavo il grasshopper o l'Alexander e facevo questo. Grande quindi, spazio anche alla creatività, sì. Dunque c'è, cioè, insomma, qua altro che preparare e mettere insieme due bevande, però, no, Fernanda? Se c'è creatività si spiega perché ci sono anche le bar lady. Certamente sì. E sono un secolo duro. Una cosa che è importante sottolineare è proprio questa sinergia con la cucina, perché molto, molto spesso i banconi del bar sono dentro anche grandi ristoranti o comunque ristoranti di tendenza, e c'è una sinergia molto forte tra gli chef in cucina e i barman, i bartender, che usano molti ingredienti che arrivano dalla cucina. Certo. In molti casi sono donne e sono sempre di più, devo dire. Una cosa che a me ha incuriosito, che ho chiesto a Sisti quando ci siamo visti, era se si riusciva a riconoscere un drink fatto da una donna che ha una sensibilità diversa, ma lui dice di no. Ecco, allora io devo chiudere questo spazio, saluto Federico Volpe e naturalmente Charles, che si è unito alla nostra combriccola negli ultimi minuti, però qualche numero, Fernanda, vorrei darlo. È un settore che vale in Italia 18 miliardi di euro, il bar italiano. Esatto. Cioè, voglio dire, si smuove una discreta fetta di economia, mi pare. Quanti bar sono attivi? Quasi 150.000. Le regioni dove c'è una grande concentrazione: Valle d'Aosta, Liguria e Sardegna. Per cui, insomma, se volete candidarvi a fare questa professione, una capatina in questa regione sarà forse la cosa giusta. E adesso siamo quasi in chiusura, è il momento dell'editoriale di Cuore Denari Expo. Riascoltiamo quello che abbiamo affidato alla nostra amica Lella Costa, ambasciatrice di Expo. Cuore Denari Expo. La nostra amica Lella Costa che è in linea con noi. Ciao Lella. Ciao Nico, ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Ambasciatrice di Expo, sì. Noi vogliamo chiudere la puntata con l'editoriale di Lella Costa. Perbacco. Ecco, perché vogliamo che tu ci racconti che cosa ti è piaciuto di Expo, il messaggio che ti vuoi portare, che ti porti nella tua quotidianità. A me è piaciuto essere contattata, appunto, ed essere ambasciatrice portavoce qui, cioè le donne di Expo, proprio perché penso che, visto che il tema è nutrire il pianeta, se non lo lasciano fare a noi non andiamo da nessuna parte. Credo che ci sia nel femminile una quotidianità diversa, un'attenzione, un concetto di cura e di condivisione, anche di bene comune, molto più radicato e molto più naturale. E quindi credo che ci sia questo di bello. Mi piace molto che a ottobre, uno degli ultimi eventi paralleli, diciamo, Expo, sarà Terra Madre Giovani, organizzata da Slow Food, quindi l'incontro di tutte le comunità che producono il cibo proprio a Milano. Credo che quello sia il percorso più interessante: la qualità del cibo, la cura del cibo, l'assunzione di responsabilità rispetto soprattutto allo spreco, che, ripeto, soprattutto nelle donne è pratica quotidiana, e ancora una volta mi piacerebbe che si partisse da noi e si imparasse da noi. Noi siamo assolutamente d'accordo con te, Lella. Ne sottoscriviamo proprio punto per punto. Grazie a Lella Costa per essere stata con noi. Ciao Lella, a presto. Buona giornata. E siamo arrivati ai saluti anche per questa seconda puntata del Meglio di Cuore Denari Expo. L'appuntamento, come sempre, è per domani alle 11 su Radio 24. Un saluto dalla donna di cuore, ma anche dalla donna di denari. Buona giornata a tutti.